Mix 24 di Giovanni Minoli. Freud ha detto: amore e lavoro, lavoro e amore, non serve altro. Beh, io sono in pensione e mia moglie è morta. Come potete capire, ho parecchio tempo a disposizione. E la pensione? Beh, è uno sforzo continuo e implacabile di creatività. Al principio, lo ammetto, la novità mi piaceva, mi pareva di marinare la scuola. È solo che sento che c'è un buco nella mia vita e ho bisogno di riempirlo. E così, eccomi qua, a offrirmi come uno dei vostri stagisti. Perché più ci penso e più questa idea mi sembra eccezionale. Allora, Benjamin, ora ti faccio una delle domande più rivelatrici che facciamo a ogni stagista, quindi riflettici bene, ok? Dove ti vedi tu tra 10 anni? Cioè, 80 anni. Era Robert De Niro nel film Lo stagista inaspettato, un film di qualche mese fa che è riuscito a anticipare un fenomeno che sta crescendo. Sono gli stagisti over 50, uomini e donne che per ritrovare il lavoro si mettono a fare la gavetta, ricominciano da zero, dal livello più basso, quello dello stage, appunto. Secondo una ricerca dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro dell'area metropolitana di Milano per il giornale, su circa 30.500 stagisti il 6,8% sono over 40 e over 50. Significa 2.000 lavoratori maturi e sono 6 volte più numerosi rispetto al 2010, cioè un numero in continua crescita. Martina Sbraciani, 52 anni, 3 figli, è una stagista inaspettata, una di loro. Ecco, lei ha ricominciato a lavorare a 50 anni, facendo un tirocinio, perché? Praticamente avevo perso il lavoro perché prima avevo un'azienda, diciamo, col mio ex marito. Sì. E dopodiché, con la separazione, sono andata via. Certo. E ho ricominciato, tra virgolette, da capo. Ecco, ma ha cercato un lavoro in quel periodo e cosa le rispondevano? Allora, guardi, è stata un'umiliazione immensa. Perché? Era troppo qualificata, eh? Ero troppo qualificata e troppo vecchia. E quindi le è venuta in mente l'idea dello stage, di ricominciare da zero? Sì, diciamo che poi ero sempre su internet, sul web, quindi mi tenevo informata, ho visto questa proposta della Regione del Marche e dico perché no. Praticamente funziona che devi presentare tutta la documentazione all'ufficio collocamento, dopodiché ti devi trovare un'azienda che ti proponga lo stage. D'accordo, insomma, e lei, se l'è trovata lei l'azienda o gliel'hanno trovata loro? No, l'ho trovata io. Quando no, ha cominciato a fare colloqui per lo stage, come si sentiva? Diciamo che, insomma, è stato il periodo più brutto della mia vita. Perché? Perché praticamente, insomma, a una certa età che mi sentivo umiliata, ecco. Ma cosa le chiedevano? Che cosa le chiedevano? Niente, requisiti, esperienze pregresse. Beh, che lei aveva, anche troppo. Esatto, poi mi dicevano che magari, ecco, posso darti del tuo, certo, Giovanni, certo. Ecco. Diciamo, nel momento attuale c'è bisogno assoluto di un lavoro, quindi io mi proponevo anche per mansioni meno qualificate. Naturalmente. Loro mi dicevano che non era possibile perché non potevano abbassare il mio livello di qualifica. Ma era uno stage pagato o no? Era uno stage che veniva retribuito, diciamo, parzialmente dalla regione per un netto di 400-500 euro, non mi ricordo. Ma quanto è durato questo stage? Gli stage, diciamo, di quel tipo duravano 6 mesi. Era facoltà dell'azienda assumerti oppure, certo, terminato lo stage, terminata l'esperienza. Ma si ricorda il primo giorno di questo stage? Beh, sì, sì, me lo ricordo. Cosa le hanno fatto fare, signora? Diciamo che ero affiancata da un ex collega che poi se ne andava e praticamente già, comunque, con la mia esperienza già mi sono inserita per quello che potevo fare. Ma cosa le hanno fatto fare? Che cosa materialmente? Cosa Io sono un'impiegata amministrativa, quindi subito al centralino, subito alle prime cose, diciamo, a livello di ufficio, per quello. Io sono una persona che comunque si adatta molto, cerco di capire, sono un perspicace, quindi volevo assolutamente dimostrare, insomma, che nonostante tutto. Senta, ma quanta umiltà c'è voluta quindi per ricominciare da zero? Tanta, 50 anni, l'ha detto lei. Il coraggio di essere umile. Secondo me non si finisce mai di imparare. e il fatto di rimettersi in gioco è fondamentale, non perché io sia a 50 anni o la mentalità di dire a 50 anni sono finito per me non esiste. Io certo. Ho sempre, diciamo, l'idea che è un piacere imparare qualcosa di nuovo. Ma ai tre figli cosa gli raccontava che loro faceva? Sono, insomma, sapevano tutto di questa esperienza. L'hanno seguita, sì, insomma, l'hanno aiutata, accompagnata. Anzi, nei momenti di sconforto era la mia grande, che oggi ha 23 anni, quindi 2 anni fa ne aveva 21, che mi spalleggiava, mi diceva mamma. Ma dai, e adesso lei a che punto è? Adesso sono al punto che sono stata assunta dopo lo stage con un contratto part time a tempo indeterminato. Quindi è andata bene? Sì, è andata bene, e quindi adesso sono sola, completamente autonoma, soddisfatta di quello che sono riuscita a fare, perché comunque poi gestisco tutto secondo, diciamo, il mio modo di essere. Ecco, ma la sensazione per esempio di togliere un posto a un giovane che oggi si propone per uno stage per il suo stesso lavoro, ce l'ha mai avuta o no? No, ho avuto la sensazione che insomma non ci sia un posto per una persona come me, che a 50 anni sento giovanissima fisicamente e sana, e non ho la possibilità di avere un lavoro per poter mantenere i miei figli. Ma perché il suo dottore di lavoro, secondo lei, ha preferito lei, una over 50, a un ragazzo di 20 anni? Ma in questo caso mio personale, posso parlare per questo, penso uno per l'esperienza, due per il fatto che essendo una donna tra virgolette navigata e avendo vissuto la mia vita, sicuramente loro guardano anche questo. Danno più sicurezza, dava più sicurezza. Il fatto di non doversi sposare, fare figli, purtroppo è una verità questa, quindi avere più sicurezza della disponibilità. Cioè quello se n'è accorta, lei lavorando lì ha saputo di storie diverse. Anche di mie ex colleghe, ex amiche, esatto, che magari non hanno avuto l'opportunità di avere un lavoro proprio perché ma se tu fra poco ti sposi, certo. E poi dopo, capito, cioè, questa è la realtà. Ecco, ma per chiudere, che consiglio si sente di dare a un suo coetaneo cinquantenne nella sua situazione, che cerca un lavoro, disposto anche a ricominciare da uno stage? Allora, consiglio 1, umiltà, 2, coraggio di rimettersi in gioco, 3, non darsi mai per vinti. E a un ventenne cosa consiglia? Oddio, questa è la domanda dolente, perché ho 2 figlie ventenni. In questo momento andate via dall'Italia. 9, 11 e 41 secondi, la signora Sbracini ci mette davanti a un fatto. Per gli over 50, anzi per gli ultra cinquantenni, per dirla in italiano, la realtà è quella di rimettersi in gioco. Per i giovani invece, dice lei, l'unica soluzione è quella di andare all'estero. Siete d'accordo? Se siete d'accordo o non siete d'accordo, 800 24 00 24, dice la vostra opinione, numero verde 349 238 6666, se volete scrivere. Mario, tu che pensi? Allora, situazione molto complicata, perché se guardiamo i dati, diciamo, complessivi del mercato del lavoro, in realtà quelli che hanno un'età tra i 50 e i 64 anni oggi sono gli unici che trovano ancora lavoro, ed è l'unico dato in crescita seria degli ultimi mesi, diciamo, anche l'ultimo è positivo. Quindi cresce l'occupazione, cala la disoccupazione in quel settore. Il problema vero è che però poi c'è un esercito grande, certo, di persone che in quell'età critica per tutti, uomini e donne, perdendo il lavoro non riesce più a ritrovarlo. Vuoi per un mercato che è molto ristretto per quella fascia d'età, vuoi perché in Italia con grande ritardo non sono stati fatti programmi di formazione per chi deve riqualificazione, esatto, insomma, certo, e rimettersi nel lavoro, e vuoi secondo me per una mentalità che secondo me va combattuta, perché è contro gli interessi del paese, dove si pensa che un cinquantenne sia vecchio. Io ricordo, certo, non smetterò mai di ricordare finché ho voce, che l'Italia è il paese più vecchio del mondo, insieme a Germania e Giappone, e quindi uno in questo paese a 50 anni è un uomo, una donna. Sì, ma non lo dice soltanto come dire i 50 anni, lo dice la medicina. Sì, lo dice la medicina, ma racconta... sai che da noi tutto è un'opinione, anche i dati, purtroppo. Sì, vabbè, dicevi Pietrangelo, volevi dire una cosa? No, sono solo atterrito e basta. Ah, solo atterrito. Va bene. Nel frattempo però il tema caldo di questi giorni sono appunto le pensioni. Il ministro Padoan ha dichiarato ieri che ci sono i margini per migliorare le opportunità per chi sta per andare in pensione e per chi deve entrare nel mondo del lavoro. Opportunità in entrata e in uscita. Mario, tu credi che questi ragionamenti tengono conto di questa categoria invece di cinquantenni col piede, allora, diciamo, sospesi? Qua, bisogna sfatare un mito. Anche qua ci sono tutti i dati disponibili, quando si vuole li diamo e si possono consultare. Non è vero che quando tu, per esempio, dal pubblico, dalla pubblica amministrazione fai andare la gente in pensione prima, poi si creano nuovi posti di lavoro. Non è così, perché l'abbiamo già visto. Quindi, se l'intenzione è quella di liberare posti, non è così, scordatevela. Cioè, non sarà quello l'effetto. D'altronde, si è visto anche sul Jobs Act, che ci dicevano tutti che eravamo pessimisti. Cioè, sono nel migliore dei casi cose non meditate. Non dico demagogiche, ma non meditate. Allora, se invece si vuol dire che, ma solo per completare il mio pensiero, Giovanni, se invece si vuol dire che si vuole, diciamo, migliorare la vita della società italiana e quindi dare più flessibilità in uscita ai lavoratori, allora si può discutere, certo. Ma facciamo un discorso di tipo sociologico, certo. Se facciamo un discorso di tipo economico, in politica e dunque nell'economia politica, 2 più 2 non fa mai 4, certo. Può fare 5 o può fare 3. Senti Pietrangelo, 50 anni e il rischio di uscire e non rientrare nel mondo del lavoro, in realtà poi lo corrono tutti, anche chi fa un lavoro come il nostro, così. In realtà, no? Il lavoro come il nostro, tu dici. Beh, parliamo di noi alla fine. Allora, no, però una cosa la posso dire. È una piccola provocazione. Una cosa la posso dire e retoricamente sottolineo senza tema di smentita. Io posso dire che conosco un'infinità di liberali, liberisti, liberi qua, liberi là del libero mercato, che sono tutti col sederino al caldo, sì. Sono tutti super protetti, super paracadute, e conosco un'infinità invece di sani socialisti, statalisti, di gente che invece è letteralmente nei guai. Il mondo della creatività, della fantasia, dell'immaginazione, il mondo degli artisti, il mondo dei giornalisti, il mondo della comunicazione, tutta questa realtà adesso è nelle mani di pochissimi e soprattutto gestisce, ed è un'assoluta vergogna, le realtà giovanili all'insegna dello sfruttamento più totale. Dello sfruttamento di quel cavolo di precariato su cui il nuovo mondo gestisce, nel linguaggio pure degli eufemismi che altro non sono che delle prese in giro, tipo quel coworking o tutte quelle sonore stronzate, l'orario, lo posso dire? No, comunque tutte queste formule per dire che uno se ne deve stare a casa, ogni tanto fa il lavoro, non ti fare vedere dove ci sono che non ha lavoro, di lavoro, punto. Per uno che non ha lavoro, basta, insomma, quello. È una tragedia. Una poi tragedia, un'ultima infatti. Cosa, allora, i cinquantenni di oggi, sì. Io sono un cinquantenne, esatto. Anzi ultra cinquantenne, e abbiamo avuto a che fare con tutta una generazione di vecchissimi che non facevano entrare nessuno. No. Adesso col mito della rottamazione si è creato un mare grande di precariato che coinvolge padri di famiglia. E infatti ci scrivono. Quindi sono tutte stupidaggini. Ci scrivono moltissime. Ammansite dal linguaggio del regime. Allora, diciamola tutta. Prima eri troppo giovane e c'erano i vecchi. Adesso sei improvvisamente diventato vecchio, che verrebbe voglia di mandarli tutti a quel paese. Però, per fortuna, c'è chi è dall'altra parte, che decide di assumere degli ultra cinquantenni. Perché lo fa? Ecco, Lorenzo Crosta è un imprenditore che possiamo definire un imprenditore anomalo. Tra i dipendenti della sua azienda, che prima si occupava di elettromeccanica, adesso si è trasformata in un'impresa agricola, ci sono, oltre che persone con disabilità che lui assume, anche pensionati ultra cinquantenni e ultra sessantenni. Perché ha deciso di assumere pensionati? Convengono? Comunque, voglio dire, non pensionati, ma persone che sono state espulse dal mondo del lavoro perché la società è in crisi o quant'altro, convengono perché sono portatori, comunque, voglio dire, di conoscenze, e queste persone comunque sono un valore aggiunto, sono un capitale umano che comunque hanno delle competenze acquisite, delle esperienze acquisite, e sono facilitatori anche per persone, come dire, che sono portatori di handicap, perché hanno un punto di paragone con cui, guardando come viene usato uno strumento, il cacciavite piuttosto che il martello, piuttosto che il trapano, sanno esattamente insegnare a queste persone che esatto. la funzione per cui serve. E convengono anche di più dal punto di vista economico, poi in realtà. E convengono anche certo. dal punto di vista economico, molte volte ci sono comunque quelle possibilità date, non so, la gente che comunque voglio dire ha goduto della cassa integrazione e poi certo. viene messa in altro parcheggio. Fiscalmente, se tu lo assumi, come dire, hai dei vantaggi fiscali. Esatto. Ecco, ma la sensazione di togliere un lavoro a un giovane non l'ha mai avuta lì? Ma non tolgo un lavoro al giovane, perché se io incremento con del capitale umano che mi fa, faccio un esempio, noi siamo partiti con l'attività agricola, io sono sempre fatto l'elettronico e l'elettrotecnico, potevo forse impiantare un impianto a frutteto, no? Sì, cioè, certo. potevo mettere giù le piante, ma poi certo. dovevo potarle. Certo. No? Se vado, non so, a prendere un ragazzo di primo pelo che mi esce da una scuola di formazione per florovivaisti, questo mi produce un danno sull'impianto. Cioè, certo. se prendo una persona invece, in questo caso, che viene fatto. Fuori da un mondo perché è espulso, non so, magari quella ditta che faceva florovivaismo sì. è a chiuso. Sì, sì, fallito. chiaro. Prendo certo. questa persona che ha una competenza, no? Successivamente devo prendere, vuol dire, se questo c'ha 50 anni, tra certo. 10 anni mi va in pensione, devo tirare su, devo allevare qualcuno. Cioè, fa anche dall'allevatore, diciamo. Ecco, tra i suoi dipendenti, lei ha persone, l'abbiamo detto prima, affette da sindrome di Down. E anche per questo che le persone di una certa età possono sono più indicate perché possono affiancarli meglio? Ma sicuramente anche perché, come dire, hanno anche una conoscenza delle buone prassi comunque che si vivono all'interno del mondo del lavoro. Uno quando entra giovane nel mondo del lavoro ci entra, voglio dire, con tanti sogni. Sì. Uno che c'è, voglio dire, da tanti anni, comunque i sogni se li è già comunque cancellati. Sì. No, ma soprattutto ha, come dire, un portatore anche di quelle che sono comunque le conoscenze, non so, sembra una stupidata, no? Ma io da giovane, quando sono entrato in azienda, facevo un po' lo spocchioso, cioè nel senso, ma facevo delle cose stupide, no? Una persona che, come dire, di una certa età, certo, no? c'ha l'esperienza e quelle cose non le fa più. Delle buone ecco, prassi, quante, so persone, dica... quante persone lavorano nella sua azienda? Noi attualmente che sono assunte sono una cinquantina sì. di persone. Senta, e quindi per e quanti sono quelli con sindrome di Down? Ma i disabili, cioè, dire che una parte sono assunti, una parte no. Cioè noi abbiamo 50 dipendenti e poi abbiamo altrettanti, come dire, persone che vengono dal mondo della disabilità. Ah. Perché utilizzando comunque di questo capitale umano non facciamo solamente, voglio dire, le attività nostre, ma cerchiamo di formare anche soggetti per l'inclusione lavorativa. Certo. Quindi, per cui quindi usiamo di queste persone che hanno una competenza per trasferire queste conoscenze, questo sapere, in modo tale che questi possano accedere al mercato certo. del lavoro. E quindi per determinati lavori gli over sono migliori sia come rendimento sia per l'accompagno che fanno nell'inclusione ma delle persone diverse. No, ma scusi, ma io sono venuto su, come dire, facendo l'apprendistato, per cui andavo in un'azienda e avevo davanti, voglio dire, una figura che non era un mio pari, era uno che comunque più anziano la sapeva di me, più lunga, la sapeva. Senta, un'ultima cosa. Sì. Ci sono lavori che sono più indicati per persone che hanno disabilità? Guardi, sicuramente ci sono, come dire, per le persone che hanno disabilità ci sono, come dire, possibilità a 360 gradi. Ci sono lavori molto più, come dire, attinenti. Non so, ad esempio, uno che ha la sindrome di Down, se io do comunque una possibilità di un lavoro ripetitivo, no? Questo, come dire, diventa un buon produttore. Se io devo fargli fare comunque dei lavori che sono sequenziali, no, questo si perde in un bicchiere d'acqua, mi fa degli errori. Davvero un imprenditore speciale, questo Lorenzo Crosta, ha tantissimi messaggi, due in contrasto che riassumono un po' lo spirito di quello che ci viene scritto. Riccardo dice: dopo essere uscito volontariamente a 41 anni dal mercato del lavoro, sono rientrato a 55 grazie alle competenze e alla conoscenza delle lingue. Adesso ne ho 59 e lavoro. Marco, 51 anni, invece, dice: mi sono iscritto al collocamento dopo 15 anni di lavoro autonomo. Per la mia qualifica ci sono solo proposte di stage 6 mesi per 6 mesi a 500 euro e diciamo il tenore dei messaggi è questo. Abbiamo al telefono Pasquale da Napoli. Pasquale, buongiorno. Buongiorno Minoli, buongiorno anche a Buttafuoco e a, Secchi. Al mitico Mario Secchi. Mitico, ha detto sempre le sue tesi, anche quello di Pietrangelo. Allora dica. Ho convinto anch'io meridionalista. Niente, io ho preso un 53enne da me. Sì. A fare un. Lei cosa fa, scusi? Io mi occupo di nautica. Ah, nautica. Diciamo così, ci ha rotto un po' i Cabasisi Mario Monti, però la nautica, fortunatamente, la grossa nautica si sta ripigliando. Niente, un 53enne che era stato espulso dal mercato, sì. L'ho reintegrato e da, diciamo così, esperienza, capacità, riesce a comprendere meglio le esigenze di chi fa un lavoro autonomo, di chi ha una partita IVA. E sinceramente mi trovo soddisfatto del 53enne, anzi ne cercherò un altro. Ne cerca un altro. Ebbene, lo troverà facilmente. Bravo. Grazie Pasquale, auguri, buon lavoro. Ecco, c'è un aspetto da non prendere sotto gamba. Non tutti i lavoratori tutti i lavori, dicevo, sono per tutti. E come diceva Lorenzo Crosta, su certi lavori l'esperienza naturalmente vince. 800-24, lo ricordo, 800-24-0024, numero verde, 349-238-6666. L'SMS, quello che ci diceva il nostro amico che ci ha telefonato, ci fa riflettere su quanto conta in realtà l'esperienza, Mario. Beh, tantissimo, questo è evidente, ed è uno dei fattori decisivi poi quando devi scegliere un dipendente, un collaboratore. Però posso dire una cosa, vorrei tornare una cosa sulla questione degli stage. Sono una forma di lavoro mascherata che è molto abusata. Sì. Questo bisogna essere chiari. Se voi andate a vedere le offerte, io le guardo le offerte di lavoro, perché ti danno un indicatore di che cosa cerca il mondo e di come va il paese. È pieno di grandi aziende che possono tranquillamente assumere, che cercano stagisti. Sì. Ma cioè, non va bene. Non va bene. Non va bene. Prendi un lavoratore a tempo determinato, pagalo bene, formalo. Però è brutto. È un vantaggio competitivo che è stato dato alle aziende. Però non è più un vantaggio, perché se tu ne abusi, non funziona così. E insomma, parla uno che non è certo un pericoloso marxista-leninista, voglio dire. Vabbè. Posso? Devi. Allora, sta storia della rottamazione, questa storia delle pensioni, dell'età, è una canagliata, oltretutto autodistruttiva per la società e per l'economia stessa. La società italiana. Mettiamo il caso, e l'ho visto, e l'abbiamo visto tutti noi che facciamo questo lavoro di cronisti, illustri clinici, chirurghi, a cui è impedito di entrare in sala operatoria solo perché hanno fatto il compleanno e quindi sono entrati nell'età della pensione. Gente che ha esperienza, su cui può costruire il futuro degli altri, gli è impedito di lavorare a ciò. Questa è un'aberrazione che deriva da una concezione fatta soltanto di numeri, di cifre, di schemi, e si passerà, ne sono sicuro, dalla fase attuale dove vige la regola dei compleanni a quella in cui magari si deciderà sulla base dell'ordine alfabetico, e quindi non si farà entrare il clinico in sala ad operare solo perché ha il cognome che comincia con la Z, si aspetta quello che comincia con la A. Questo è il rischio, è il rischio dei massimalismi non calati nella realtà. Fatto sta che dalla politica alla cultura, ma anche nei lavori più manuali, c'è una nuova categoria umana che effettivamente si affaccia sul mercato del lavoro con esperienze e competenze. Stefano Zecchi, giornalista, scrittore, professore di estetica, insomma siamo davanti in qualche modo a una trasformazione antropologica, a una umanità inedita? Non credo inedita, credo che sia quell'umanità che spera sempre di poter continuare in modo significativo la propria vita, certo. Beh, però guadagnare... se c'è la salute e l'età non è più un ostacolo, per fare cosa? Allora, guadagnare un po' di più, sì, va sempre naturalmente. Bene. Poi, perché non dedicarsi a qualche cosa che piace? Esattamente. La pensione per un intellettuale è qualche cosa che non ha senso, in qualche modo umilia, non ha senso. Ti umilia, Senta, ma gli ultracinquantenni, diciamo, si riaffacciano sul mondo del lavoro, e l'abbiamo detto, perché spinti un po' dalle necessità economiche, però c'è anche dell'altro. Che cosa c'è? Secondo me c'è il desiderio di avere ancora un principio di prestazione valido e ci si sente all'altezza di questo principio. Ma di c'è prestazione. Anche il fatto che la vita si allunga e la salute è molto più solida, quindi questo incide, in questo senso dicevo umanità inedita. Sicuramente. Sicuramente, e poi c'è anche il desiderio a una certa età di mettersi alla prova per dimostrare che quella certa età non è poi così dannosa. Certo. Cioè, secondo me è un aspetto estremamente positivo. E adesso non vorrei toccare un argomento delicato, ma potrebbe per certe categorie di persone rimettere in discussione l'idea della pensione. Esatto. Perché un conto è un intellettuale, tra virgolette intellettuale, che è il mestiere che fa lei, che faccio io, certo, che fanno persone, diciamo così, che lavorano con la testa, o dovrebbero lavorare con la testa. Un conto è un operaio in fabbrica, oppure anche chi è un impiegato ma ha un lavoro alienante. Certo, ma questo non è questo caso. E quindi dicevo, professor Zecchi, in qualche modo si torna alla figura della persona anziana, saggia, però un saggio 2.0 che è capace anche di insegnare ai giovani. Perché? Perché le energie intellettuali e fisiche e l'esperienza si sono accumulate e sono tutte vive, presenti. Certo, ritorniamo aristotelici, perché adesso mentre lei parlava io vedevo riassunto un capitoletto della politica di Aristotele, il quale suggeriva anche che i politici devono avere una certa età, avanzati nel tempo, adesso non mi ricordo esattamente, sì, ma dice anche l'età, perché così non sono ambiziosi, perché usano la saggezza, perché non vanno in cerca di denaro, perché dovrebbero già averlo, e quindi potrebbe essere una vera rivoluzione antropologica. Infatti in questo senso, professor Zecchi, può essere quasi una questione anche di atteggiamento, cioè c'è un'umiltà in più, meno accaniti, meno ambiziosi, no? Sì, però capaci di risolvere i problemi. Sì, ambiziosi su se stessi, col desiderio di trasmettere delle conoscenze. Esatto. Io francamente... Di allevare i giovani, E di allevare i giovani. Infatti un aspetto che può essere interessante di questo riepilogo di una nuova umanità è l'artigiano. Esatto. L'artigiano... Bell'esempio. L'artigiano, soprattutto l'artigiano d'arte, che è in via di sparizione, desidera trasmettere le sue competenze. Avere qualcuno che vada a bottega proprio. Sì, ecco. Sì, proprio così. Ma non solo l'artigiano d'arte che fa opere, piccole opere d'arte, ma anche più semplicemente il falegname. E il falegname, esatto, che viene da me ad aggiustarmi, non so, la libreria, ha voglia di continuare a trasmettere queste sue competenze sempre più in via di sparizione. Ecco, professor Zecchi, ma gli ultracinquantenni che hanno questa ricerca, in qualche modo di un lavoro in più, sono alternativi ai giovani oppure sono un'altra cosa? Perché questo è uno dei temi che viene sempre messo davanti, no? In qualche modo. No, io non vedo che ci sia un conflitto generazionale. Ecco, no, perché? No, perché? Perché in fondo il giovane deve aprirsi la strada per conto proprio e avere delle persone competenti che gli stanno dietro, gli fa solo bene. Quindi non vedo, certamente se uno fa solo un discorso quantitativo, allora sì, uno dice rimangono nel mondo del lavoro persone diciamo anziane e quindi tolgono il posto ai giovani, ma non è però vero. Non è così, ecco, ma no, c'è secondo un me non è così, ecco, no, professor Zecchi, no. Ma c'è un pericolo che possano queste persone di un'età diversa, più avanzata, possono essere utilizzati perché sono più convenienti, costano meno, sì, non hanno grandi richieste sul lungo periodo, sì, quindi sì. È certo che c'è una convenienza economica anche. Sicuramente, però voglio dire, si potrebbe fare un buono sposalizio tra la convenienza, esatto, economica e l'intelligenza della prestazione. Ma cioè, lei professore quando andrà in pensione? A me mandano in pensione a 70 anni. Ma è rovinato, poco. Allora che quando smetterà di lavorare cosa proverà a fare? No, io ho già pensato. Si è già organizzato? Sì. No, ma perché vedo che tanti miei colleghi crollano disperati quando vanno in pensione. Perché, e anche colleghi suoi, non sì, solo colleghi, certo, perché è un mondo che ti viene a mancare nel momento in cui tu ti senti, se stai bene, certo, all'altezza di situazioni, anzi, che stai a affrontare meglio di prima. In qualche caso, appunto, meglio di prima. Vabbè, può darsi che questa trasformazione antropologica abbia questo primo sprazzo di umanità inedita. Va bene, sì, professore. Decidere che la pensione in fondo è un optional, ecco, per tante persone. Anche Boeri sarebbe contento. Ecco, Boeri l'ha detto ieri con chiarezza che i giovani dell'80 andranno in pensione a 75 anni e quindi questo mi sembra che sia un messaggio forte, anche abbastanza drammatico da un certo punto di vista. Ma questa volta per chiudere questa pagina che ha suscitato moltissimo dibattito anche tra i nostri ascoltatori, perché diciamo che sulla linea di Mauro da Milano, che dice considerate che la tecnologia e l'informatica ha segato almeno la metà dei posti di lavoro, che è un grande tema che abbiamo affrontato più volte, il rapporto tra il lavoro e l'automazione, e dall'altra ci sono troppi dipendenti statali e parastatali che sono inutili. Si consiglia licenziarli e abbassare le tasse, così molto più lavoro privato perché detassato. Però è proprio così poi alla insomma, fine. Vabbè, per chiudere oggi chiudiamo in un modo un po' divertente con la nostra Sora Cesira, che anche lei ha affrontato a modo suo il problema della pensione. Oggi tutti insieme cercheremo di capire come fanno per campare tutti quanti gli italiani. Come fa la casalinga? Che con 700 euro al mese non possiamo andare avanti. Oh, e come fa l'operaio? E i miei figli che cosa gli dico? Che non possono più mangiare. E l'impiegato? E come si fa per andare avanti, per poter sopravvivere? E l'insegnante cosa dice? Voi tutti siete una massa di ladri. E il pensionato? Il pensionato come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Gli fa una previsione, la busta arancione che l'INPS ha preparato e adesso gli ha mandato per dargli la notizia che è abbastanza rovinato. E il pensionato cosa fa? Ma come campa non si sa. Lo Stato in ginocchioni per le preoccupazioni, fra tante soluzioni, tagliuzza le pensioni, che tanto ormai è invecchiato, poverello il pensionato. E il pensionato cosa fa? Anche se c'ha una certa età, eppure i contributi pagare li ha dovuti, e adesso per campare vuoi che torni a lavorare. Pensionato, ma come fa? State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Allora, Pietrangelo, dove partiamo stamattina? Won't close, the railings froze. Get your mind off winter time, you ain't going nowhere. Oggi parto da ieri, Giovanni. Parto da ieri, sera, dal Teatro Parioli, dove eri tu al processo a Fidel Castro, e c'era quella sua spiazzante profezia. La vuoi dire tu? Spiazzantissima, no, dilla tu. No. È una spiazzantissima profezia del 73, quando Fidel Castro ha detto faremo gli americani parleranno con noi, di nuovo, quando ci sarà un presidente nero e un papa latinoamericano. L'ha detto nel 1973. Può piacere o non piacere Fidel Castro, però ci vedeva lungo. Una spiazzante profezia. Allora io... Non è che parlava con l'Altissimo, ha avuto una soffiata. Beh, infatti poi ha fatto incontrare il Papa con Cyril, insomma, è interessante. Insomma, traffici celesti li avrà avuti. Allora, siccome il comandante nel suo ultimo discorso ha ribadito i principi del comunismo in lotta contro l'imperialismo americano, questa denuncia l'ha fatta però indossando una tuta Adidas. Certo, che ha sponsorizzato. E siccome nelle contraddizioni si afferma il miracolo del tempo che avanza, allora niente, ho scelto io questo brano, non ha telefonato nessuno, però attraverso questo brano tutto americanissimo ho visto Gengis Khan scorazzare per ogni dove guidando il maggiolone. E ci siamo. Gengis Khan in maggiolone. Non è male Gengis Khan in maggiolone. Tu Mario dove ci porti? La bolla? Boh, non lo so, mi ritiro. Vabbè, vai. No, non è ora. Girl, close your eyes, let that rhythm get in. Beh, questo è un pezzo che è un po' ambivalente, perché si può ballare, perché il ritmo ce l'ha, senti. Ma può essere usato anche in fase di vanetto, senti. Senti ora, Rock with you. Un po' stanco. Quando uno è un po' stanco va al divanetto vellutato, mi raccomando, e via. Vabbè, sembriamo proprio piombati nei clubini degli anni 70. E tutto questo per dire che vi metto un po' di canzoni di Michael Jackson, che resta il re del pop, che se ne dica, e vi andiamo nei paesi anglosassoni, in questo caso alle relazioni America Regno Unito. Perché? Perché dobbiamo parlare della Brexit e perché Obama è andato a dare una mano all'amico e alleato David Cameron a Londra. Ora, il viaggio di Obama è molto importante perché Obama è schierato, diciamo, per il Remain, cioè per affinché il Regno Unito resti in Europa. C'è il referendum in giugno e la battaglia si sta spostando a livello globale. Questo testimonia quanto sia importante questo appuntamento. Potrebbe rappresentare, se gli inglesi uscissero dall'Unione Europea, un vero e proprio shock. George Osborne, che è il cancelliere allo scacchiere, quindi il ministro dell'economia, diciamo, del Regno Unito, ha sfidato i sostenitori dell'uscita dicendo: nessun leader mondiale sosterrà mai la vostra tesi, cosa che però è in parte vera. Perché potrebbe arrivare in questa incredibile sfida anche Marine Le Pen, che ovviamente è in gara in casa sua per le presidenziali, e cerca che cosa? Di sollecitare l'uscita del Regno Unito affinché possa trarne anche lei giovamento. Lei ha una posizione no euro, questo problema gli inglesi non ce l'hanno perché hanno la sterlina, come sapete, però è interessantissimo come il livello di questo dibattito si sia alzato ulteriormente. Improvvisamente, sì, ecco. Sì, sì. E noi giochiamo un ruolo, noi vedremo, un ruolo. Lo vedremo piano piano. Salamino, oggi 21 aprile, oggi ci si fa gli auguri, non lo sa nessuno, ma prima di entrare, prima di entrare in quella specie di triangolo delle Bermude che dal 25 aprile porta al 1 maggio, la vera festa è oggi, è il Natale di Roma, e quindi io lo saluto col Carmen seculare di Orazio e la musica di Giacomo Puccini. Da questo microfono vorrei ricordare, perché la libertà di parola senza la libertà di parlare al microfono è un regalo fatto a Stalin. Musica! Sole che sorgi, libero e gioco. Oggi la fondazione della città eterna, e nel frattempo se ne sono fatte ben tre di Roma. Una è Costantinopoli, cioè Istanbul, poi Mosca, ma quella dai Sette Colli, e quindi la città di Roma, oggi con la travagliata nottata passata da Silvio Berlusconi avrà finalmente il suo candidato sindaco. Fino a ieri Silvio Berlusconi aveva scaricato Guido Bertolaso. Già in serata però era arrivato il ripensamento. Ritirare Mister Protezione Civile significa far vincere l'asse Salvini-Meloni. Il ritiro di Bertolaso è dato, e leggo la cronaca dal cronista numero uno, ovvero Giuseppe Alberto Falci, data per probabile, possibile. Applausi a Falci! Applausi a Falci! Applausi! Oh. Allora, per probabile, possibile e sicuro. Come si dice Gloriù, come si dice dalle parti nostre? Nottata persa e quindi figlia femmina, che si potrebbe dire che è il crudele proverbio contadino. Tutto sembra portare alla scelta della candidatura obbligata, quella di Giorgia Meloni, detta la lupa, simbolo di Roma, ma pur sempre madre di due gemelli votati al fratricidio. Detto ciò, insomma, oggi Natale di Roma arriverà il regalo. E però peccato, l'idea, sai, leggendo la stampa oggi c'era Mattia Feltri che lo sottolineava, l'idea era suggestiva assai, perché Bertolaso sindaco di Roma, già questo, poi Claudia Gerini vice sindaco, va bene, seconda cosa, Francesco Totti assessore allo sport, va bene, Antonio Razzi ma che lei, già annunciando il ritiro della sua candidatura, aveva fatto alzare il sondaggio che da 3 voti, sì, quindi diventavano 4, come hanno sottolineato Figaro e Picone. Allora, Antonio Razzi, che è l'organizzatore dei 44 gatti per la cattura dei sorci, dei ratti e delle zoccole in libera uscita sul Tevere, insomma, bellissima, suggestiva, meravigliosa, su cui il futuro presidente del consiglio comunale, cioè Carlo Verdone, aveva le idee chiare, cioè quello di asfaltare, così se scorre. Insomma, sto povero Bertolaso, salviamolo. Era dato per Mr. Wolf, quello che risolve i problemi, e invece abbiamo scoperto chi è. Ascoltiamo. Per tanti anni uno si tiene un mattone sullo stomaco che pesa, però arriva anche un momento in cui dici abbassa. Sto mattone lo devo prendere, me lo devo levare, anche se può far male a qualcuno, molto male. Signori, io sono il fio naturale di Elvis Presley. Altro che Mr. Wolf. Pubblicità. Mix 24. Da Buckingham Palace esce Elisabetta. Ha disceso a piedi le scale. Gli ascensori non avrebbero contenuto la veste da cerimonia. Filippo è in uniforme di ammiraglio. Carlo e Anna guardano la mamma che va a ricevere la corona. Is your majesty willing to take the oath? I'm willing. Come in un rito nuziale tra la sovrana e il suo popolo, i due sì sono stati pronunciati. Come in un rito nuziale tra la regina e il suo popolo, così lo speaker della settimana Incom sottolinea enfaticamente il rapporto di Elisabetta II con i suoi sudditi. E il 2 giugno del 53, per la prima volta, la cerimonia sarà trasmessa dalla televisione. 20 milioni di telespettatori, 11 milioni di radioascoltatori. Elisabetta ha solo 26 anni e succede al padre Giorgio VI. Regna battendo il precedente record della regina Vittoria da più di 63 anni. Elisabetta II, oggi 21 aprile, il compleanno speciale. Mille fiaccole accese in tutto il Regno Unito per celebrare i 90 anni di una regina molto amata. Qui a Radio 24, dopo il giornale radio. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, una cosa che insomma ha un po' a che fare con Castro. Music. Vabbè, questo non lo presento neanche, però è un pezzo. Questo è tutto da ballare. Solo. Anche se una fase di vanetto c'è, sì. Quella cucchino. Vabbè, senti Giovanni, vabbè, tu hai fatto la serata in teatro su Castro, forse bisognerà farne una su Chavez e su Maduro, anche il Venezuela è praticamente uno stato fallito. Tra l'altro a questo punto secondo me bisogna stare anche attenti alla stabilità di quella zona in particolare, perché hanno razionato l'energia elettrica, la crisi è enorme, il crollo del prezzo del petrolio poi ha generato veramente uno sfascio incredibile, l'elettricità è razionata in 10 stati, anche nell'area metropolitana di Caracas. Ti dico solo questo: il venerdì non vanno a lavorare per risparmiare. Punto. Costa di più l'energia di quanto producono. Secondo me, ma follia. Pazzesco. Però Maduro mi pare non abbia grandi chance di continuare. Per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi oggi? Oggi una canzone per chi, dopo tanto vagare tra i cuori, frena e dice stop.